E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione, la trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere di Radio Onda Rossa, venendo ogni mercoledì dalle 15 alle 16, oggi infatti è mercoledì 18 di aprile. E allora ancora buona giornata e buon ascolto e buona libertà, soprattutto per chi ne è privato e privata. E dicevamo, da un po' di tempo stiamo seguendo questo periodo abbastanza come dire, importante per l'esito che avranno le strutture più infami, più indegne del sistema carcerario italiano, ossia gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi anche oggi dedicheremo una parte della puntata a vedere a che punto sta questo cosiddetto tentativo di chiudere gli OPG, però sostituendoli con qualcosa che rischiano di essere altrettanto peggiori. Intanto, questo argomento quindi lo vedremo nella seconda metà, intanto la situazione interna alle carceri diventa sempre più pesante, si dimostrano del tutto fallimentari, come era facile prevedere, insomma, noi l'abbiamo detto tante volte, ma non solo noi, un po' tutti, i cosiddetti decreti svuota carceri che hanno lasciato pressoché inalterata la situazione. Si parla di qualche centinaio, un migliaio che sono usciti, quindi non è cambiato di molto i 67-68 mila presenze in carcere, che sono, ricordiamo, 25 mila oltre la capienza. A questo proposito ci sono tante, diciamo, tante proposte, in realtà non è che il dibattito del paese sia, bisogna dirlo purtroppo con franchezza, anche se un po' si parla di carcere stante le condizioni in cui è giunto il carcere italiano, però non sono problemi all'ordine del giorno, purtroppo, quelli per cui si stanno proposte. I radicali hanno proposto una sorta di amnistia, altri la stanno cavalcando questa proposta, perché insomma è l'unica che permetterebbe di svuotare un po' le carceri. Anche se attenzione, le varie proposte di amnistia che circolano, quelle scritte su carta, quelle realmente proposte, le proposte di disegni di legge presentate in Parlamento, sono qualcuna è abbastanza ambigua, perché sono condizionati, hanno una condizione a che possa avvenire poi questa amnistia, nel caso venisse approvata, che è una sorta di rimborso o risarcimento del danno fatto. È un problema, quindi questo. Il secondo problema, che è quello che chiude ogni discussione, è che la gran parte, forse il 98% pressoché, quindi tutti, delle forze politiche italiane sono dichiarate contro un'amnistia. Qualcuno comincia a cincischiare, però ricordiamo che perché sia votata un'amnistia o un indulto, queste due leggi che realmente sarebbero svuota carcere, ci vogliono i due terzi non dei presenti in aula il giorno della votazione e l'ora delle votazioni, ma degli iscritti, per cui molti di più della presenza. Considerate che le presenze medie di parlamentari in Parlamento, sia al Senato che alla Camera, sono di un terzo, proprio la metà, in genere oscilla intorno alla metà, dal 30% alla metà, la presenza effettiva, perché non è che stanno sempre in aula, se non quando si deve votare qualcosa di importante. E quindi i due terzi, la legge dice che ci vogliono i due terzi dei parlamentari iscritti, quindi due terzi di tutti quelli alla Camera e due terzi di tutti quelli alla Senato, quindi basta che qualcuno non si presenti, in realtà è come se votassero. Dicevamo, stante la situazione attuale, i numeri dei sistemi di Parlamento non danno nessuna possibilità, insomma, che venga. Questo lo diciamo per, purtroppo non è una bella notizia, però meglio dire la verità, che perché abbiamo saputo che forse per voci così sbagliate, oppure superficiali, che girano intorno alle carceri, e dentro è arrivata l'idea, qualcuno comincia a farci, come si dice, la bocca buona, l'acquolina in bocca, dell'amnistia. Ma non conviene, come dire, puntare, perché pare che la situazione non è oggi favorevole, non ci sono i numeri, in Parlamento non ci sono assolutamente, siamo ben lontani da avere anche l'avvicinamento ai numeri. E vabbè, quindi interviene però ieri esattamente sul quotidiano Il Manifesto anche il presidente di Antigone, Patrizio Connella, che dice in effetti l'unica cosa possibile oggi è l'amnistia. Però lui non parla di un progetto specifico di amnistia, però fa un po' una come dire, una panoramica della situazione carceraria e dice il 37% dei condannati in Italia sono dentro per aver infranto la legge Fini Giovannardi, quella sulle droghe, quindi persone che o sono essi stessi tossicodipendenti oppure stanno comunque nel giro delle droghe. E ricordiamo che la gran parte del piccolo spaccio sono anche consumatori, per cui questi due numeri si avvicinano molto. I dichiarati, coloro che si sono dichiarati tossicodipendenti, e molti lo sono ma non si dichiarano, perché dichiarandoli si può avere appunto, si può andare sotto la cosa del CERT e qualche piccola facilitazione, però insomma molti si dichiarano, molti non si dichiarano, i dichiarati sono circa il 20%, quindi il 37% condannati, per cui quasi tutti i condannati sono anche consumatori. E la Fini Giovannardi, sappiamo, una delle leggi che produce più ingressi in carcere, insieme all'altra legge, quella sull'immigrazione, sia la Bossi-Fini, quella appunto che punisce, e sia appunto il reato di cosiddetta clandestinità, che è stato introdotto poco fa, poco prima che il governo Berlusconi cadesse, e quello, diciamo, ha introdotto un nuovo tipo di reato. Queste due figure fanno la gran parte, maggioranza nelle carceri italiane. Vabbè, quindi anche lui spezza una, non dice molto di più, spezza una lancia a favore dell'amnistia, perché appunto dichiara che la cosiddetta legge svuota carceri, sia quella del ministro Alfano sia quella del ministro Severino, in realtà non hanno portato che appunto qualche goccia di uscita in carcere. Allora, 15-16 minuti, continuiamo. Intanto, diciamo, la cosa drammatica, ma anche in qualche modo grottesca, perché rasenta l'incredibile, quello che avviene. Tutti si lamentano, questo poco fa abbiamo letto l'intervento del presidente di Antigone, Patrizio Cornella, ma sono in tanti anche, l'aveva detto anche all'insediamento l'attuale ministro della giustizia di questo governo, aveva detto sì, il problema è che in Italia ci sono molte leggi vengono chiamate in termini tecnici criminogene, cioè leggi che producono crimine, nel senso che producono a livello sociale già presente una grossa trasgressione, una numerosa trasgressione di queste leggi, se vengono di questi comportamenti, cioè sono dei comportamenti sociali, che so, per esempio, se decidessero che il parcheggiare in doppia fila diventa un reato penalmente perseguibile, quindi con cui si prende una condanna penale, con cui si va in galera, è chiaro, essendo un comportamento molto diffuso quello di mettere la macchina in seconda fila, avremmo metà della, due terzi forse, per non dire tre, forse tutti, della cittadinanza romana in carcere, no? Ecco, questo è il discorso. Le leggi criminogene sono quelle leggi che fanno diventare un comportamento abbastanza diffuso, lo fanno diventare reato, cioè dicono una legge che quel comportamento è contrario alla legge, e quindi chi mette in pratica o continua quel comportamento diventa penalmente perseguibile. La Bossi-Fini è questo. L'immigrazione c'è sempre stata dai tempi in cui forse avevamo pure i peli addosso, cioè dai tempi dalle origini di questa specie di Homo sapiens. L'immigrazione è connaturata a questa specie di animale che saremmo noi, perché infatti siamo nati tutti in una certa regione e poi siamo espansi in tutto il mondo, quindi l'immigrazione, questo per andare alle origini, è proprio connaturata a questo tipo di... noi siamo un animale non stanziale ma nomade, questa dalla storia ci dice. E poi se bastiamo a sfogliare i libri di storia, le varie migrazioni, no, che sono state in tutti i secoli, millenni, fino ad oggi, ci sono ancora, di alcune se ne parla, di altre non se ne parla. Quelle che invece se ne parla e sono diventate, pensate un po', una assurdità contraria non solo all'umanità, ma proprio all'essenza stessa di questo animale che si chiama Homo sapiens, perché appunto contrasta un suo comportamento che è diffuso, totale. L'unico comportamento condiviso è quello del nomadismo che abbiamo come animali, e queste leggi puniscono lo spostarsi, che viene chiamato migrazione. C'è in molte parti del mondo, c'è, masse si spostano e non diventa nemmeno notizia. Qui in Italia qualche migliaia di migranti che facevano nient'altro che quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno fatto per tanto tempo, per secoli, cioè gli immigrati che andavano a cercare lavoro altrove, è diventato reato, e quindi il reato di immigrazione è una delle cose più sconvolgenti, più allucinanti, di quelle cose che quando ti dicono di stare in un paese, noi stiamo in un paese chiamato Italia, che ha queste leggi, le peggiori in assoluto mai prodotte dall'umanità, molto peggio di quelle che così ci raccontano la storia della brutalità, perché i contemporanei vedono sempre tutto più roseo, no? Immagino che i contemporanei dei campi di sterminio, che pure stavano lì vicino e qualcosa sospettavano, se proprio non sapevano esattamente, sospettavano, perché vedevano questo passaggio di treni, di derrate alimentari, eccetera, ci doveva essere qualcosa, insomma, facevano finta di niente. Dopo qualche anno diventa un grosso problema. Ecco, questi anni, quando verranno raccontati tra diversi decenni, tra molti anni, dagli storici, anni terribili, diranno, pensate un po', la migrazione era diventata un reato, a tanta follia, come quando adesso si dice, pensate un po', i nazisti hanno fatto i campi di sterminio, pensate a quale follia, altrettanta follia, è solo che si capirà tra qualche, avremo tutti il coraggio, perché lo sappiamo adesso, pure noi, che è un'infamità, come lo sapevano i contemporanei dei campi di sterminio, solo che non si ha né il coraggio, la paura, non so qual è il meccanismo che ci impedisce di dire quello che in realtà sappiamo, no? Il reato di immigrazione è un crimine contro l'umanità in assoluto, è la cosa più abietta, al pari della costruzione dei campi di sterminio. Vabbè, questa cosa credo che chi ci ascolta la sa a memoria, quindi non ci dilunghiamo. Vediamo invece che appunto che cosa ha prodotto. Per esempio, non solo produce l'immigrazione, questa demonizzazione di un comportamento naturale degli umani è diventato un crimine, poi addirittura produce anche una cultura molto perversa, molto anche stupida, del fatto che, e qui apro l'argomento, due punti. Allora, giustamente, da un po' di tempo a questa parte c'è abbastanza attenzione, anche da parte dell'opinione pubblica, della stampa e di tutti noi, quando qualche ragazzo o ragazza viene arrestato e, stando i primi giorni nelle celle di sicurezza, o si rovina la salute o ci lascia le penne, no? Stefano Cucchi e tanti altri. Perfetto. e siamo attenti a che queste cose, abbiamo sempre detto, abbiamo criticato la legge, la proposta di, che è diventata poi una legge, sta anche questo nello svuota carcere, di tenere le persone appena arrestate, invece di fargli fare 24 ore in carcere e poi devono uscire, ma a tenerli nei cieli di sicurezza, abbiamo detto della pericolosità di queste, ebbene, ebbene. È morta un'altra persona dentro queste celle di sicurezza, e però non ha avuto questo risalto enorme, perché probabilmente perché era una donna ucraina, e il commissariato era quello di Trieste, è entrata con i propri gambe, certo accompagnata dalle guardie nel commissariato, ne è uscita in una bara, aveva 31 anni, una donna ucraina, era stata portata portata in commissariato per essere espulsa, si chiamava Alina Diachuk, non si sa chi dice che si è suicidata, chi dice che è morta, insomma, comunque è entrata viva dopo due giorni, è uscita morta dalle celle, le camere di sicurezza, come le chiamate, del commissariato di Udine, e insomma, capite? Oh, poi abbiamo da Foggia, è successo che appunto anche qui è stato trovato morto un detenuto di 28 anni, un altro sempre al carcere di Foggia che ha avuto una settimana tremenda, ha tentato il suicidio, per fortuna è stato salvato in tempo, e un terzo è andato in ospedale, c'è un malore, anche qui non si sa niente, per una crisi terribile, insomma comunque sta in ospedale in coma, pare in coma glicemico, insomma, quindi è un problema di enorme gravità. Bene, diciamo invece il problema che vogliamo affrontare, perché ci sono molti articoli chiaramente sulle riviste specializzate, sui siti specializzati, però anche la Repubblica ha portato un lungo articolo, la Repubblica Online un lunghissimo articolo su, il titolo era Matti al bivio, poi termine un po' antipatico, per parlare di quello che sta succedendo negli OPG, negli ospedali psichiatrici giudiziari. Matti al bivio, inchiesta sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Fa tutto, è un lunghissimo articolo che ripercorre un po' tutte le tappe che hanno portato la Commissione del Senato a visitare le carceri, da cui c'è anche quel famoso video scioccante che ha sconvolto tutta l'Italia, questa commissione appunto è tornata in Parlamento, ha detto che gli OPG erano una vergogna medievale, bla bla bla, e hanno fatto la legge per chiuderli, tutto bene, ma quale legge, che legge hanno fatto? L'abbiamo vista, una legge abbastanza rischiosa, perché dice che dovranno essere chiusi questi 6 OPG, perfetto. Dove andranno questi persone malate, cosiddette malate, rinchiuse lì, questi 1400 persone, che chi dice 1300, chi dice 1400, comunque che sono rinchiuse dentro quegli obbrobri, la parola non è nostra, hanno usata i senatori, quelle strutture barbare, anche questa è una parola, hanno usato loro, e dove andranno, e qui entra il problema di che cosa è il controllo psichiatrico, perché intanto devono essere divisi in due categorie. Vi sono quelli a cui è attribuita, che hanno scritto sulla propria cartella pericolosità, pericoloso socialmente, e quelli che non l'hanno, quelli che dicono solo, hanno invece soltanto scritto malattia mentale. I secondi possono essere presi in cura dalla ASL della propria regione, e quindi mandati in così anche potranno essere, diciamo, curati tra virgolette medicalmente anche nel proprio domicilio, in altre strutture libere. I quelli che invece hanno la pericolosità sociale dovranno rimanere in strutture che passeranno alla regione, quindi ogni regione ne farà uno o due piccoli, perché non devono superare le 20 unità, questo per evitare che si facciano i grandi lager, però si faranno i piccoli lager, la differenza è e che dovranno comunque essere situazioni di custodia, di chiusura, quindi controllate militarmente all'esterno, e qui si apre il grosso problema. $5,000, fresh girl in a t-shirt, still looks best, travel I miss my past. Life's turning up the pressure. It's making me aggressive. The music sounds like dead ham. Allora, da 15:27, no. Non possiamo sentire tutta la canzone, è molto bella, è lunghissima, è degli hip hop, però noi dobbiamo continuare. Allora, ripartiamo dalla dichiarazione che fece proprio Ignazio Marino, senatore che aveva guidato questa commissione. Non immaginavo, diceva Marino, nemmeno lontanamente che nel nostro paese esistessero ancora dei residui delle strutture manicomiali realizzate durante il fascismo. È una delle tante dichiarazioni in cui ha espresso disprezzo e anche come dice, è rimasto colpito perché non credeva che, vabbè, a parte che questi politici, lui esperto della sanità, che non conoscano, perché queste persone non conoscano come si è organizzata in generale la medicina del territorio, le strutture detentive e anche la psichiatria, come che cos'è il controllo psichiatrico in questo paese. Vabbè, diceva che non lo sapeva, quando noi, ma tanti altri, lo sapevano da tempo e si strillava da tempo dell'esistenza di questi OPG. Ci stanno tanti libri. Vabbè, lui diceva che non sapeva e comunque si stupisce perché queste strutture esistono dal nazismo, dal fascismo. Ma non è, e qui fa un errore a nostro avviso. Poi fa tutto l'elenco, tutte cose belle, perché vede, cioè qui racconta di una persona nuda legata a un letto di ferro, che al centro c'era soltanto un buco per i propri escrementi, stava lì da giorni, e queste persone che entrano per aver fatto un piccolo reato, porta la storia di un gruppo di ragazzi che facevano i furti, tre di questi vengono dichiarati sani di mente e prendono una condanna di qualche mese. E ovviamente prendono la condizionale perché non fanno il primo reato, un anno e due mesi prendono e non fanno neanche un giorno di carcere. Il quarto di questo gruppo di ragazzi viene dichiarato invece con vizio mentale, quindi non viene processato, viene però buttato in un OPG e ci sta da 20 anni. Quindi per lo stesso reato qualcuno ha preso un anno e tre mesi e nemmeno li ha fatti i suoi amici, e lui che si sta da 20 anni in OPG. Questo per dire come funziona la cosiddetta, se qualcuno nomina ancora la parola giustizia, chiaramente voleva dire una bestemmia, probabilmente vuol dire una bestemmia. Vabbè, difatti si chiama ergastolo bianco. Ma la cosa, diciamo, l'errore in cui cadono un po' tutti questi che hanno pure espresso anche la trasmissione, che hanno espresso disprezzo, critica verso queste strutture, e va bene, e hanno poi anche detto che vanno superate, e va bene, e hanno detto che erano dei residui del fascismo, le strutture, e qui hanno sbagliato, perché non è la struttura, non è solo, anche quelle sono residui del fascismo, ma è il concetto di controllo psichiatrico, perché in realtà quelle persone stanno lì dentro, e apposta, come poi ha visto, ha verificato un caso specifico Ignazio Marino, ma anche l'equipe dei giornalisti che hanno fatto quel bel servizio sul TG3, no? Che tutti hanno visto, di Iacona, c'è ancora su YouTube per vederlo, comunque no, c'era sulla registrazione, insomma si può vedere, e tutti si dicono che quelle strutture sono, non è vero, è la concezione che il controllo psichiatrico in questo paese è stato prodotto dal fascismo. Perché? Perché tutto si basa sulla questione della pericolosità sociale. La pericolosità sociale è proprio l'elemento centrale e è quella che interviene non tanto su quello che hai fatto, ma su quello che potresti fare. Quindi è un concetto che ha poca attinenza anche col diritto romano, con la positività del diritto, con tutte queste concezioni che noi non piacciono ovviamente, che però fanno la base di molti ordinamenti giudiziari. In Italia, durante il fascismo, è stato introdotto questo concetto della pericolosità sociale, e quindi mentre per il reato c'è il carcere, l'espiazione, il carcere opera come retribuzione, tu fai un danno tot che io lo misuro e ti do tanta tot privazione di libertà, quindi questo sistema appunto si chiama retributivo, no? Cioè che tanta pena, tanta punizione e così via, tanta trasgressione, tanta punizione, salta questo perché lì non c'è, oppure c'è e conta soltanto per l'ingresso, come quel ragazzo che insieme agli amici hanno fatto un furto, loro hanno preso un anno e due mesi, lui non è stato processato, quindi attualmente non ha manco un giorno di galera, però sta da 20 anni in un OPG. Ecco, per quelli hanno fatto un reato e allora è stata applicata la sanzione retributiva, tutta roba schifosa, brutta, perché noi non accettiamo, però funziona così, dovrebbe. Qui c'è stata un'eccezione alla pericolosità sociale e quindi le misure di sicurezza, perché non avendo fatto, cioè non ti punisce il reato, ma ti applica la misura di sicurezza, per la quale non è prevista il carcere, ma l'internamento, ossia la misura di sicurezza. La misura di sicurezza è un internamento, non è detenzione, non è classificato come detenzione, per cui i giorni lì non vengono, diciamo, contati come giorni di espiazione, mesi, anni di espiazione, ma semplicemente quindi consunzione della pena, consumi la pena e poi finisci, ma affermazione di pericolosità sociale che soltanto quando questa scade tu potrai uscire. Ovviamente in genere stanno lì da sempre, per qualunque motivo siano entrati. Quindi questo concetto di pericolosità sociale, usata poi dal regime fascista non solo per diciamo per tenere questa, perché aveva una visione molto integralista della società, tutti dovevano comportarsi così, vivere così, tutti robot dovevamo essere, ma anche per combattere l'opposizione politica. L'opposizione politica che nel primo decennio del fascismo non ha operato, diciamo, delle resistenze attive, molto conflitti, lotte, se non poca cosa, no? Men che meno guerra partigiana, per punirli come facevano, quindi, no? E quindi non facevano niente i dissidenti dei partiti antifascisti, stavano ognuno, non solo quelli dei partiti, quelli che manifestavano idee antifasciste stavano per conto loro, eccetera, eccetera. E quindi si inventarono il problema, non poteva punirli perché non c'era nessun reato, stavano lì, perché lavoravano e andavano a casa, e qualche volta si riunivano in un bar a chiacchierare. E allora si inventa il fatto della potenziale pericolosità sociale, quindi serviva anche per, e lì cominciò a carcerare tutti gli oppositori, ecco. Quindi è un concetto che ha poco a che vedere, perché come, chi è che può stabilire che cosa farai tu domani? Quindi è una previsione del futuro, si dice questi soggetti possono fare, sono pericolosi per la società, potranno fare, potrebbero fare, anzi potranno, è asseverativo, potranno fare un reato, una trasgressione di legge, e quindi non li teniamo in carcere preventivamente. Questo è l'elemento, cioè, ora, mentre gli OPG si possono anche chiudere, no? Infatti probabilmente li chiuderanno, il problema è che qualunque cosa vanno a costruire, se rimane questo concetto di pericolosità sociale, che poi il fascismo è passato, però questo concetto si è espanso a tutta la società, cioè è diventato ancora più totale, quindi totalitario, che non al periodo fascista. Durante il periodo fascista si applicava sia ai comportamenti anomali, anche gli omosessuali, quelli che avevano i capelli troppo lunghi, cioè tutte queste forme qui venivano sanzionate come pericolo, e poi ovviamente gli oppositori. In questa società oggi il concetto di pericolosità si applica a tutto campo, qualunque soggetto sociale, grande o piccolo che sia, che si mette in movimento rischia di diventare, quindi non è stata abbandonata. Perché è importante? Perché se chiudono gli OPG, questo concetto che bisognerebbe espellere proprio intanto dalla cultura e anche soprattutto dalla legge, non c'è nella Costituzione, c'è nella legge, ma la gente, questo bisogna dirlo a tutti quei giornalisti, uomini politici che parlando a vanvera così santificano la Costituzione, in questo paese la gente viene mandata in carcere non per articoli della Costituzione ma per le leggi del codice penale. Quello che caratterizza un paese non è tanto una Costituzione che sta lì, è un quadro appiccicato al muro, ma è il codice penale che cura i rapporti tra cittadino e Stato e dice, caro cittadino, dice lo Stato armato, dice, caro cittadino, o ti comporti così o ti sbatto in galera. Quindi quello ti dà il senso dello Stato e del rapporto tra Stato e cittadini. Quello si chiama codice penale. Il codice penale italiano, cioè questa base, questo pilastro centrale del paese attuale, Italia, è ancora basato sul codice penale mussoliniano, per cui è chiaro che il passaggio dal regime fascista a quello cosiddetto democratico non è avvenuto nelle strutture, polizia, carabinieri, finanza, eccetera, esercito, più o meno sono rimasti di quell'impostazione lì, prefetti, questori, eccetera. Ma anche in questi concetti che sono culturali, la pericolosità sociale informa le leggi italiane. E finché ci sarà questa, anche se chiudono i 6 OPG e faranno piccoli luoghi di contenzione sempre, con le guardie intorno, perché tu sei pericoloso socialmente e quindi nessun un medico non ti può mandar via, perché ha paura che se poi succede qualcosa, tu essendo, lui ti ha dichiarato non più pericoloso, invece tu eri pericoloso. Allora il pericoloso rimane sempre pericoloso per la società, vale per queste persone sottoposte al controllo psichiatrico, sta marciando per valere nei confronti di tutti quelli che in qualche modo esprimono un dissenso, un qualcosa che non gli va. Questa è la tendenza. Quindi quella pericolosità sociale e le annesse misure di sicurezza, che è l'internamento in un luogo adatto, ieri OPG, domani, oggi più OPG, domani sarà, lo chiameranno istituto regionale per l'igiene mentale, lo chiameranno in qualche modo, però sempre recluso, sempre contenuto, sempre è dichiarato che il tuo vivere, il tuo modo di vivere, il tuo comportamento è incompatibile con la società, quindi tu sei pericoloso per la società, per cui da tenere ben rinchiuso. Up in the quiet dark, fed the cat, hit the park. Cheek as cute as chocolate queen, looked and smiled right at me. Keep on believing, keep on believing, keep on believing, keep on believing. She said hi without no sound, made my hair go light and round. She was dressed to kill the Pope, and what she did, she gave me hope. I smiled back without no sound, I said hi and left the ground. Pixie hair, she made me know how much I care. Brown eyes gave me butterflies, she tore my soul up to the sky. Size. blinded dumpsters every day, trying to find a way out, some kind of way. He knows he's a target, everyone is. Strangle that rock and roll star, make him eat jizz. It's a sad, bad feeling. It's a sad, bad feeling. It's a sad. In my bones, it won't leave me alone. I'm going out of my head. I'm going out of my head. I'm going out of my head. Allora, 15:45, 15:46. Dunque, dicevamo che è estremamente importante questo concetto della pericolosità sociale, perché adesso vedremo un altro caso. Intanto questi nostri giornalisti, esperti, si cascono dalle nuvole. Forse pensavano di stare in un paradiso, chissà, forse non avevano mai visto i reparti delle carceri italiane. Vabbè, allora, è talmente importante... tremendamente negativo il concetto di pericolosità sociale, che non si applica soltanto alle persone sottoposte a un controllo psichiatrico, cioè che dichiarati infermi di mente con i vari schizoidi o altre cose, ma anche alle persone normali. Normali, se si può dire questo concetto, loro ci impongono di usare questa legge. Le persone non dichiarate né infermi di mente né disturbate, niente, no? Come... che fanno un reato, rubano, fanno una rapina, quello che gli pare, e vanno in galera e finiscono la loro galera. Spesso nelle sentenze c'è scritto che, terminata l'espiazione della pena, la persona, perché appunto reputata pericolosa socialmente per i suoi comportamenti, dovrà fare alcuni mesi, un periodo non ben specificato, in strutture protette. Attenzione. Allora, la cosa importante, come intanto qualcuno ha detto, in Italia si sveglia e un giornalista della Repubblica va in un posto che si chiama Casa di Lavoro, vicino Modena, a Saliceta. Dice che so questo in carcere, vabbè, chiaramente qualcuno ce lo manda, e li titola così: I disperati dell'ergastolo bianco, nella casa lavoro senza fine pena. È su Repubblica due giorni fa, del 16. Che cos'è che va a vedere questa struttura? Qualcuno l'aveva scampanato, non sapeva, questo avrà, che ne so, una certa età, giornalista, quindi dovrebbe conoscere la realtà di cui parla, e non sapeva che c'era questa cosa. Sono ex carcerati, qui ci dice, racconta, che hanno scontato una condanna tutta fino all'ultimo minuto, ma che risultano socialmente pericolosi, lo mette tra virgolette, per fortuna, il pericolo, attraverso il lavoro dovrebbero essere reinseriti nel mondo. Ma occupazione ovviamente non ce n'è per nessuno in questo paese, men che meno per gli ex detenuti, e molti di loro restano in questo regime di semi-reclusione senza alcuna certezza sul futuro. Un progetto, cioè, gli hanno detto che Modena è un paese, una cittadina che si reputa progressista, eccetera, e quindi c'è in corso un progetto di abolire questi quattro istituti, sono quattro in tutta Italia, dove le persone che hanno finito la condanna, perché hanno sulla sentenza l'indicazione, oppure come, anche come misura di polizia, la pericolosità sociale, non finita la condanna, non esci dalla matricola, te ne vai a casa, vai in queste strutture, case di lavoro, di rieducazione, comunque in cui c'hai una semireclusione, puoi uscire per andare a lavorare, ma la sera devi tornare lì. E va bene, ce ne stanno quattro in tutta Italia. E allora si domanda il giornalista, no? Intanto hanno un sprazzo di... anche loro hanno qualche grammo di materia grigia, intanto si anima, prende corpo, e lui si domanda: si può finire di scontare una pena e diventare ergastolani? E certo si può, perché pensavi, lui pensava di stare in uno stato di diritto, quelle cose che Non si era mai posto la domanda che forse non era così, e stavolta l'ha scoperto, meglio tardi che mai. Si può, sì, sì che si può finire. Infatti, dice, a vedere il caso degli internati della casa di lavoro di Saliceta, San Giuliano, provincia di Modena, sembrerebbe proprio di sì. Infatti, in questa struttura vengono parcheggiati, tra virgolette, ex detenuti che dopo aver commesso reati e aver scontato la pena tutta, ai quali il magistrato ha applicato un'ulteriore misura di sicurezza perché considerati socialmente pericolosi. E allora siamo al problema. Il problema è che ci dobbiamo liberare del una cosa che appunto non, vabbè, intanto ci ripugna il fatto che alcune persone a qualunque titolo vengano dichiarate socialmente pericolose, che non vuol dire, che gli unici socialmente pericolosi sono i ricchi e quelli che hanno la possibilità di licenziarti, per esempio, che socialmente, perché sono pericolosi per quelle persone, una grossa fetta sociale, che vivono di lavoro. A un certo punto il padrone di una fabbrica, di un'azienda, gli gira la testa, chiude quella fabbrica, quelli sarebbero socialmente pericolosi, però purtroppo non c'è nessuna legge che lo... Invece dice che poi questi criteri sono fumosi, non è che qual è il criterio per cui una persona è dichiarata socialmente pericolosa? È un criterio molto fumoso. Quelli per disturbi mentali, c'è uno psichiatra, che lasciamo stare gli aggettivi, che dice che tu sei socialmente pericoloso. Quelle persone che invece sono cosiddette normali, perché sono socialmente? Qual è il criterio? Perché evidentemente ci sono quello che dicono gli esperti, ci sono tanti studi su questo, perché non chi l'ha scritta per un motivo, l'abbiamo detto, erano il regime fascista, perché voleva fare un paese. Gli ideali del fascismo sono quelli di fare un paese con tutti i robot, tutti soldatini un po' stupidi, senza cervello, però che fanno quello che gli si comanda, con un pulsante in testa a posto del cervello. Questo è il loro obiettivo, e quindi mettere il concetto, no, la categoria anche culturale di pericolosità sociale, vuol dire una persona che non è conforme a quello che riteniamo noi debba essere il cittadino di uno stato fascista. Questo pensavano i fascisti, e hanno creato in cui c'è l'ambiente in cui vivi, un ambiente malfamato, già questa cosa, come se fosse colpa sua, uno sceglie dove nascere, secondo. Poi perché frequenti delle compagnie, tutti pregiudicati, eccetera. O perché c'hai un, non lo so, per altri motivi, insomma, non è manco precisato. In qualche modo, su segnalazione della polizia, il magistrato ti può mettere pericolosità sociale. E questo non ha niente a che vedere col reato, non è che è reato grande, no, anzi, spesso proprio per chi vive di furti, di espedienti, significa che fai un reato, ti danno, non so, appunto, un anno e due mesi, e però in sentenza c'è scritto: quando esci non vai a casa. Questo che ha scoperto questo grande giornalista Repubblica, che si sa perché esiste, perché se esiste nel codice penale, il codice penale sul terreno delle violazioni pesanti della legge, quelle che prevedono il carcere, no, ha proprio questo concetto, informa, è questo concetto che informa tutto il meccanismo delle pene e anche la loro pesantezza. Cioè, se voi vedete una persona per esempio che fa tre furti, per questa società 3-4 furti, quindi è recidivo e quindi cade sotto la legge Cirielli, per cui ogni piccolo reato d'ora in poi, da quando viene dichiarato recidivo, se lo fa per intero, senza più misure alternative, senza sconti, cioè con tutte le aggravanti. In più è probabile che venga dichiarato socialmente pericoloso, e quindi quando esce non torna nemmeno più a casa. Piuttosto che invece non vengono dichiarati socialmente pericolosi, che ne so, i grandi corruttori, i grandi corrotti, oppure anche a volte gli omicidi, no? Omicidio per onore non viene dichiarato socialmente pericoloso, perché ha fatto una volta. E insomma, quindi non dipende assolutamente da quello che secondo la cultura comune è la gravità, no? Il reato contro la persona è più grave di quello, dovrebbe essere, di quello contro il patrimonio. Questo dovrebbe essere un valore fondante, insomma, umano, no? Perché vabbè, finché tocchi le merci va bene, ma se tocchi le persone fai del male e non va bene. E invece no, noi pensavamo che fosse questo, che la legge in qualche modo interpretasse il sentire comune della gente, perché credo che il sentire comune, qualunque sondaggio affermerebbe che la gente normale di questo paese, ma anche di altri, pensa che sia più grave la violenza contro la persona piuttosto che impossessarsi di cose altrui. Eppure la legge non ragiona così. E allora c'è qualcosa, o i cittadini sono sbagliati o sono sbagliate le leggi dello Stato. Una delle due cose è sbagliata, non va in sintonia. Perché invece è molto più perseguibile il pericoloso socialmente. Uno che fa diversi furti diventa recidivo, socialmente pericoloso, e non avendo mai toccato una persona rischia di stare in galera, come dice il giornalista di Repubblica, con l'ergastolo bianco. Cioè bianco vuol dire che non, in genere l'ergastolo ci va secondo l'accezione comune chi ha fatto reati di sangue, quindi massacri, cioè, questa è l'idea comune della gente. Invece uno che ha fatto 3 furti sta in carcere a vita, è chiaro che è bianco, perché e allora il concetto sta tutto in questa pericolosità sociale. La cosa che risulta fastidiosa per chi si occupa di queste cose, oltre che una forte rabbia per chi le subisce queste cose, è che tutti questi che hanno scritto e si sono indignati sull'OPG, no? E i senatori, c'è un senatore del PDL, no? Quindi di destra, che di quelli che le galere, anzi, cioè, devono moltiplicarsi, perché no, tutti cattivi in galera. Bene, tuttavia pure questo ci voleva anche uno del PDL, è andato nella Commissione Marina a visitare i vari Aversa e Barcellona Bozzoli Gotto, i due OPG hanno visto, è rimasto sconvolto, ha detto ma io non credevo, ma perché allora chiudiamo tutte le carceri, vediamo, ferma. Vabbè, l'hanno stoppato, comunque per dire, no, anche lui si è spaventato, un uomo di destra, un uomo che vuole carcere a tutto spiano, però ha detto no, queste sono camere di tortura e quindi non si può fare. Quello che però stupì lui, poi Maria, tutti quanti parlano, quello che non hanno, si sono, come dire, hanno puntato l'attenzione sulla struttura, che è sì vergognosa, il letto di contenzione, la gente che cammina in mezzo al proprio vomito e così via, ma non hanno capito qual era l'elemento giuridico di fondo che mantiene quella porcheria, perché poi pure tenergli le camere pulite e non legarli al letto di contenzione. Il problema è che tu dichiari delle persone socialmente pericolose, cioè non in grado di convivere con gli altri, cioè ti assumi una... questa è una valutazione da Dio, è veramente un trip da divinità. Soltanto chi si pensa di essere Dio pensa di poter decidere chi può vivere socialmente significa con gli altri, chi può avere una socialità, cioè un rapporto libero con altre persone, e chi no. È una sorta di inferno dantesco che vive nel presente, e abbiamo visto che questa cosa non si applica soltanto alle persone dichiarate inferme di mente, soggette appunto a disturbi psichici, ma anche alle persone normali, semplicemente perché il loro comportamento sociale, cioè sono persone, una volta i vecchi ispettori di polizia appunto del vecchio regime scrivevano persona dedita al furto, che vuol dire che è portata a rubare, in genere fa quello. Poi hanno levato questo non era nella legge, cioè era appunto, però nelle andate a vedere negli archivi di Stato, perché vi ammazzate dalle risate. Le persone, i cosi di polizia, no? Le cartelle di polizia sono le più divertenti, perché c'è la segnalazione di tutti quanti quelli che vanno sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, dell'ordine sociale, e le relazioni che questi scrivono per ciascuno di noi, c'era e c'è ancora una cartella, e loro scrivono dedito al furto, quindi pericoloso socialmente. Il concetto è lo stesso, l'ispettore di polizia, rozzo, ignorante, grezzo, che scriveva queste cose, diceva secondo me quello è dedito al furto, cioè quello ambisce a rubare, il suo lo spirito lo porta a rubare. Dedito vuol dire questo, perché uno può essere dedito alla musica, alle religioni, agli studi, alle passioni scientifiche. Capite come siamo messi? Cioè il livello culturale, giuridico di questo paese equivale a quello di un ispettore, di un buzzurro ispettore di polizia del regime fascista. Perché i concetti sono quelli con cui si valuta anche il meccanismo del diritto borghese, che dovrebbe avere invece un rapporto abbastanza rispondente tra la gravità del reato e l'espiazione della pena. Tutte cose che... Questo per dire, perché quando noi diciamo... e da questa remissione diciamo spesso noi non crediamo nemmeno al diritto borghese, quello bello pulito in cui si corrisponde a delitto pena in maniera equale, in cui le carceri siano sostanzialmente pulite con le tendine rosa alle fine. Perché non ci va? Perché questo non si realizzerà mai finché esiste un sistema basato sulla individuazione dei comportamenti dichiarati reati pericolosi, cioè da sanzionare, da colpire, da punire, e esisteranno i luoghi atti a queste cose, le carceri eccetera, è chiaro che non potrà mai esistere un, come dire, un sistema sanzionatorio accettabile, perché è chiaro che nei momenti in cui la situazione sociale si ingarbuglia, le tensioni vengono fuori, e l'unico modo che gli stati, lo stato questo, ma tutti gli stati presenti, passati e futuri, conoscono per tenere tutte le persone in riga è quello della punizione. Più è alto il sobbollimento sociale, diciamo così, e più è pesante la punizione, e il meccanismo è solo questo. Bene, male, noi questa cosa qui sarebbe stato interessante discuterla, che so, in un'assemblea, perché tutte queste cose avvengono, stanno avvenendo in questi giorni, cioè la legge dice, la legge che è approvata dopo aver visto questa porcheria degli OPG fatta nel dicembre scorso, dice che questi OPG vanno chiusi entro il febbraio del 2013, quindi mancano quante, 9 mesi, 10 mesi. Bene, entro questi mesi qua, entro marzo, devono farlo entro marzo, poi è stato prorogato entro aprile, stanno scrivendo in qualche cameretta dalle parti di Palazzo Madama, al Senato, penso alla Camera, la Commissione senatoriale, quindi credo al Senato, stanno scrivendo le norme con cui dovranno essere fatte queste strutture che sostituiranno gli OPG. Queste strutture che sostituiranno gli OPG non saranno molto differenti, se non forse più pulite, meno, però la struttura centrale del controllo mentale, cioè del fatto che qualcuno decide che tu sei pericoloso socialmente, quindi non puoi tornare a vivere come vuoi in mezzo agli altri, ma dovrai rimanere comunque recluso. Questa cosa rimane centrale per il sistema diciamo, giudiziario italiano e anche per il sistema culturale italiano.